fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. 2:35 del mattino, sempre in diretta con Risto Radio Convento. Questo è sabato 10 novembre del 2018 e, come è consuetudine della nostra radio, stiamo intervistando, o meglio chiacchierando. Alla fine è sempre una gran bella chiacchierata con i nostri festeggiati, i loro amici e tutti coloro che hanno deciso di divertirsi con noi questa sera. E proseguiamo con il giro di chiacchiere. Direi che loro sono anche a tema con la nostra radio, perché direi che il colore ricorrente della loro serata è il rosso, o meglio rosso un po' sul bordeaux, però chiamiamolo rosso anche perché i nostri studi sono rossi, per chi ci conosce lo sa, e quindi direi che siete ufficialmente adatte a entrare nei nostri studi, adatte perché avete una gran bella festeggiata da festeggiare, la nostra Ilaria, a cui diamo la buonasera. Ilaria, da dove vieni? Bergamo. Bergamo, perfetto. Dici un po' cosa festeggi con noi questa sera? L'addio annubilato. L'addio annubilato di chi? Mio. Tuo, con tutta questa gioia, con le braccia conserte, con grande entusiasmo. Sei emozionata, no? No. Sei contenta? Sì. Sei, però non, diciamo che sei una... Mantengo un certo un certo tono, perché insomma, bel vestito, colore rosa, non è che si può... Capito? Non è che può sbragare, perdere tutto il suo aplomb, come si dice. Comunque sei quel tipo di persona che contiene le emozioni, cioè che non è che non le prova, le contiene e le vive in modo naturale, non esposto. Tipo, hai pianto quando hai guardato Titanic? No. No, vedi? Però ti è piaciuto come film, ti ha emozionato, però non hai pianto, vedi? Perché lei trattiene le emozioni. Hai visto? Ci sta. E non, dicevamo che il colore dominante è il rosso di questa serata, non solo perché lei ha un vestito rosso, che tra l'altro mi dicevi hanno scelto le tue amiche. Sì, i testimoni. Quindi nemmeno sei stata consultata, no. Diciamo così. Io la cosa che voglio sapere, che mi interessa di più, è se l'interessata aveva già informazioni sulla taglia o è andata un po' a tastoni. No, penso sia andata... Sapevate tutto? Vabbè, ma mi conoscono da una vita, quindi... Sì, beh, però la taglia di un vestito comunque lungo, elegante, non è che puoi prenderla a casa. Rotto la madre. Esatto. Ah sì? E come avete fatto? Cioè, non a corrompere la madre, a reperire le informazioni? Corrompere la madre. E cosa le avete chiesto? Il colore, sì, perché erano in ballottaggio due colori diversi, sì, e poi il resto è venuto da sé. Dicevo, non solo perché lei è vestita di rosso, ma anche perché loro si sono un po' intonate a questa bella serata. E come mai quindi questo tema? Perché il suo colore preferito? No, perché mi sposo dicembre, quindi... Quindi dicembre è rosso, chiaramente, no? Proprio il mese classico che ricorda il rosso dicembre, con tutte le sue, diciamo così, il calore che emana il mese di dicembre, il fuoco del camino e tutte quelle cose lì. Esatto. E il fuoco del camino permette di creare rapporti migliori e di far crescere l'amore, giusto? Certo, vedi come ci intendiamo, meraviglia. E chi è il tuo futuro marito? Salvatore. E quando vi sposerete? A dicembre, ce l'hai detto, ma quando? 15 dicembre. E sarà anche il tema del matrimonio, mi dicevi? Il colore rosso non c'entra? No, in realtà no, c'è, però non è proprio il predominante. Mm-hmm, cioè, ok. Cioè, ha un suo perché. Ha un suo perché, ci vuoi anticipare qualcosa? Cioè, i colori comunque sono, diciamo, io sono molto, non sono, sono andata sul colori naturali tipo legno, sì, sai, quelli caldi per Natale, insomma. Sì, certo. Però vabbè, non è, il tema non è natalizio, non ha un tema. Il tema è infradito, no? No, no, però sarebbe non è bello rompere gli schemi. Natalizio, diciamo. Sì, però. Sì. Niente. Sai che da come me ne hai parlato, mi sa che sei una a cui piace organizzare queste cose. Cioè, comunque no, pensare... Sì? No, allora, no, piace nel senso che ti piace pensare ai dettagli, curare le cose, farle bene. Si sentiva da come ne parlavi. Però, cioè, confermi, al di là dello stress, capisco, tutte le mille cose da fare, è comunque divertente. Sì. Cioè, è interessante prepararlo, curarlo, pensarlo. Sì, positivi, però dello stress. Che però si sta facendo sentire adesso. Prima sì. È stato tranquilla, Sì, e beh, quando comincia a, come dire, a stringersi i tempi, quando cominciano a stringersi i tempi, diventa ovviamente più pressante. Dicevamo prima delle sue amiche, ne abbiamo accennato, e direi che se ce le vuoi presentare. Esatto. Vai. Lei è Federica, come dici, sì. Diciamo da quando eravamo piccole praticamente. Poi c'è Francesca, che è una collega di lavoro. Sì. Allora ti dico solo una cosa particolare, cioè che non è che sono tutti di Bergamo qua. Ah, ok, quindi beh, tu sei di Bergamo, ce l'hai detto, e invece? Allora, vabbè, lei è di Bergamo, però Francesca lavora con me a Torino, perché lavora a Torino. Lavori a Torino? Sì, ma abiti anche lì? Sì, facciamo pendolari. Ok. Poi... No, scusa, quindi non abiti a Torino? No, sì, cioè torno nel weekend. Beh, una persona che ha le idee chiarissime, no, beh, sì, cioè... Sì, no, va bene. Torno nel weekend? Sì, sì, sì. Ok. Poi Federica, che invece è campana. Sì. Vabbè, Francesca, che è la migliore amica, cioè ci conosciamo da elementari. Sì. Ed è bergamasca, ovviamente. Ok. E poi c'è Arianna, che è di Verona. È di Verona, insomma, un bel mischione. E pensi di continuare a fare questa vita, cioè Torino-Bergamo? Vabbè, no, boh, non lo so, sinceramente. Ma cosa fai a Torino? Lavoro. Cosa? Fiscale, consulenze. Consulenze? E non ci si consulta a Bergamo? Sì. Ah, no, ok. Per il momento hai trovato. No, è bella come città Torino, è molto molto bella. Beh, immagino che hai un appartamentino o qualcosa. Ok, beh, almeno sei un po' più. Sta già, è passato quattro volte davanti. Secondo me vi invidia. Sai che no, io capisco tutto. Secondo me vi invidia il vestito. Perché anche lei ce l'ha più o meno di quella tonalità, ma ha capito che non è il bello come il vostro. E quindi finge di passare, ma in realtà sta cercando di capire dove andarlo a reperire. Quella è la verità. E deve chiedere informazioni. Tra l'altro, l'avevo notato prima, la tua amica di Verona ha una bellissima maglia. Nel senso che è una bellissima frase. E niente, volevo segnalarlo. Che tra l'altro è l'unica bianca, perché c'ha un riflesso rosso nei capelli. E quindi giustamente, esatto, ha detto io comunque che è in pantano, ah, scusa, no, non la, pensavo fosse la sua. Ah, ok, ok. Ma la gonna rossa. E no, mi piaceva la frase, volevo segnalarla. Voi ragazze volete dire qualcosa alla vostra Ilaria? Dai, esatto. Parlo sempre io, ma. Vabbè, insomma, sei festeggiata, è giusto che ci sia così. No, dai, se sia così. Niente, direi tante. Sì, sono di molte parole. La serata è partita con tanto terrore, visto che l'abbiamo rapita da casa. Sì, esatto. Ah, è vero che non sapeva nulla? Sì, col panico. Aspetta, casa Torino o casa Bergamo? Casa Bergamo. L'abbiamo rapita, pensava di doversi fare una serata con amiche di sua mamma, diapositive, film. E in realtà siamo arrivate a casa sua con trombette, fuochi artificiali, alcol, cioè vino, eccetera, eccetera. E l'abbiamo caricata su una limousine e portata qua a forza. Era un Quindi limousine Bergamo Desenzano? Era un pochino perplessa, ma adesso ci sembra che la perplessità si è sciolta. Beh, diciamo che dopo 6-7 ore che si è resa conto di dov'è, cosa sta facendo, diciamo che è un buon risultato. Sta iniziando ad accorgerti. Cioè, secondo me arriverà un momento, sai quando hai tipo le visioni celesti, che uscirà alle poco dopo le 3. Ma siamo al convento, è la mia festa! E parte un'esplosione di gioia, di entusiasmo immotivata, che quando si renderà conto effettivamente di cosa è successo. Sì, probabile. È probabile che le scoppia tutto là dentro, dalle budella le esce tutto. Niente, lei vuole andare a letto, giustamente. Beh, ma sono anche questi i messaggi che contano. Cioè, la gente vuole sentire anche queste cose. Questa è la pancia della gente, capito? È l'uomo medio, il cittadino medio. Quello che ha sonno. Brava! Che ha sonno. La gente, se ha sonno, è giusto che lo dica. Quindi, bisogna esternare. Francesca ha sonno e vuole andare. Vedi che questa ragazza, ciao, bellissima. Che è, sì, lo so. Vedi che adesso sta dicendo, ha un vestito bellissimo e io non ce l'ho così bello ed è un gran problema. Ma in realtà mi sembra che ce l'abbia con te. Non lo so, non ho capito. Lui, io, cosa? Tu, signore. Lui, loro, io, perché sono fortunato che sono loro? Sei fortunato, sono fortunato. Sei fortunato. No, ha detto, sono fortunato. Allora, adesso ve la dico io, perché ho capito, io parlo un po' questo linguaggio, che è quello degli... Io lo chiamo il linguaggio degli appallottolati. Sai quando la lingua ti si gira, no? E quindi vi esco un po' le parole strane. Ha detto, tu sei fortunato perché stai con tante gnocche. Questo è il me. Sì, sì, sì. è la, l'interpretazione del messaggio che ho dato. E bene, quindi ha sonno e quindi dobbiamo farla andare a riposare. Non ha sonno. Non ha sonno, dici che è una finta. Ah, è una finta. Bene, ti tocca resistere. Tira le 5, grande. Vedi. Quella che prende sempre i bouquet, ma convinta. Sì. Noi siamo quelle che specializzata. Specializzata. Ma cioè nel senso ti fai anche crescere le unghie e fai del male agli altri o cioè è proprio destino? No, è proprio finora è stato destino. Non c'è problema perché scapperemo tutte. Tutte. Esatto. Bello. L'unica che ci tiene sono io. Che ci tiene? Ma li collezioni anche? Ho iniziato quest'anno. Ah beh, insomma. Di solito li prende per rompergli in testa alle rivali e così che fa effettivamente arriva poi al matrimonio, secondo noi. E poi come per la legge di Murphy sarà l'ultima a sposarsi, chiaramente, no? Beh, come la legge di Murphy insegna, come sempre. Intanto Ilaria zitta ha sgattaiolato tutto ed è passata avanti e festeggerà il 15 dicembre col sole, esatto. Perché ci sarà il sole visto che il tema è infradito. Bravo. E c'è una bellissima giornata. Schiuma infradito, mi piace. Ah scusa, costume infradito, mi piace. Allora saremo tutti presenti, sarà una bellissima festa, ne siamo certe. E soprattutto ci saranno loro a dare colore come ci hanno fatto a questa serata. E soprattutto ci sarà lei, tutto organizzato alla perfezione, prontissima e felicissima, come ci sta dimostrando in questi minuti. Grazie ragazze e buonanotte alla Francesca. Poi le cantiamo una ninna nanna, come si deve. E grazie ancora, buona serata, ciao! Ciao.